Reder alzò con cautela la testa. Vide la scala antincendio e sotto di essa uno stretto vicolo. Nel vicolo c'erano una carrozzella da bambini e tre bidoni della spazzatura. Mentre guardava, un braccio avvolto in una manica nera si mosse da dietro al bidone più lontano, stringendo qualcosa di luccicante nel pugno. Reder si abbassò. Una pallottola trapassò la finestra sopra la sua testa mandandola in frantumi e si conficcò nel soffitto facendogli cadere addosso una pioggia di calcinacci. Adesso sapeva che cosa lo aspettava nel vicolo. Era un uomo alto, con gli occhi iniettati di sangue e una barba di 2 giorni. La paura aveva toccato i suoi lineamenti, serrando qui un muscolo, là un nervo. C'era un killer nel vicolo e 2 sulle scale. Era intrappolato. Era morto. Certo. Pensò Reder. Ancora mi muovo e respiro, ma questo è dovuto soltanto all'inefficienza della morte. La morte. La morte. La morte si sarebbe presa cura di lui nel giro di pochi minuti. La morte. La morte avrebbe sforacchiato la sua faccia e il suo corpo disposto braccia, gambe, in qualche grottesca posizione da balletto cimiteriale. Reder si morse rabbiosamente le labbra. Voglio vivere. Deve esserci un modo. Si rotolò sullo stomaco ed esaminò l'appartamento squallido nel quale i killer lo avevano costretto a rifugiarsi. Era una perfetta piccola bara monolocale. Aveva una porta che era sorvegliata e un minuscolo bagno senza finestre. Sentì un tonfo ovattato. I killer avevano cominciato a sfondare la porta e ben presto la serratura sarebbe saltata. La porta si sarebbe abbattuta verso l'interno e i due uomini, dalla faccia senza espressione, sarebbero entrati spolverandosi la giacca. Di sicuro qualcuno mi aiuterà. Tirò fuori dalla propria tasca il minuscolo apparecchio televisivo. L'immagine era sfocata, ma l'audio era nitido, preciso. Ascoltò la voce di Mike Terry che si rivolgeva al suo vasto pubblico. Terribile, terribile, un brutto frangente, sì gente, Jim Reder è davvero in una situazione terribile. Si era nascosto, lo ricorderete, in un albergo di terza categoria di Broadway sotto falso nome, e pareva un espediente sicuro, ma il fattorino lo ha riconosciuto e ha passato l'informazione alla banda Thompson. La porta crepitò sotto i colpi ripetuti e con gli inseguitori alle calcagna è entrato in un edificio al 156 di West End Avenue. La sua intenzione era quella di scappare passando per i tetti e avrebbe potuto funzionare, gente, avrebbe anche potuto funzionare, ma la porta del tetto era chiusa a chiave. Pareva la fine, ma Reder ha scoperto che l'appartamento 7 era vuoto e la porta era aperta. È entrato e adesso si trova intrappolato là dentro, intrappolato come un sorcio in gabbia. La banda Thompson sta buttando giù la porta. Ecco, ecco, la nostra troupe vi sta offrendo un primo piano. Grazie ragazzi, guardate gente, guardate, non c'è proprio nessuna speranza per Jim Reder. Non c'è proprio speranza. Ah, un momento, forse c'è speranza. Jim, tieni duro, ho una chiamata urgente da uno dei nostri telespettatori sulla linea del buon samaritano. Qui c'è qualcuno che pensa di poterti aiutare, Jim. Reder attese e sentì i cardini che venivano strappati via dal legno marcio. Su, parli pure, signora, come si chiama? Sì, Felicia Bartolomeo. Via, Felicia Bartole qualcosa, non sia nervosa, parli pure. Sì, bene, ok, signor Reder. Una volta abitavo al 156 di West End Avenue. In effetti è lo stesso appartamento nel quale è intrappolato lei adesso, signor Reder. Ascolti, quel bagno ha una finestra, signor Reder, è stata coperta di vernice, ma ha una... Reder si cacciò il televisore in tasca, individuò i contorni della finestra e sferrò un calcio. Là sotto c'era una lunga caduta, fino ad un cortile di cemento. La porta si aprì con uno schianto dei cardini. Reder si affrettò ad arrampicarsi attraverso la finestra. Rimase appeso un attimo sulla punta delle dita e poi si lasciò cadere. E il tonfo lo stordì. Si rialzò barcollando e una faccia comparve alla finestra del bagno. Sei sfortunato! Gridò l'uomo sporgendosi all'infuori e prendendo la mira con una 38 a canacorta. E in quel momento una bomba fumogena esplose all'interno del bagno. Il colpo del killer mancò il bersaglio. Altre bombe fumogene esplosero nel cortile, occultando la figura di Reder. Poteva ancora udire la voce frenetica di Mike Terry uscire dalla TV che aveva in tasca. Scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, Jim Reder, se vuoi salvarti! Scappa adesso, mentre gli occhi dei killer sono pieni di fumo! E ringrazia la buona samaritana Sarah Winters del 3412 Edgar Street, Brockton, Massachusetts, per aver offerto 5 bombe fumogene e aver impiegato i servizi di un uomo per lanciarle. Oggi lei ha salvato la vita di un uomo, signora Winters. Vuoi raccontare al nostro gentile pubblico come... Reder comprò un giornale e camminò fino a Broadway. Prese il metro fino alla 86esima e lanciò un'occhiata al proprio orologio. Gli mancavano ancora sei ore e mezzo. La metropolitana ruggì sotto Manhattan e Reder sonnecchiava con il cappello calcato sul viso. E come in un sogno si chiese se fosse riuscito a sfuggire alla morte. Oppure era soltanto un cadavere che se ne stava andando in giro a causa dell'inefficienza della morte. Spalancò gli occhi. Aveva sognato qualcosa di spiacevole, ma non riusciva a ricordare che cosa. Chiuse di nuovo gli occhi e ricordò. Ricordò con lieve stupore un tempo, quando non si era trovato nei guai. Erano passati 2 anni e allora lui era un uomo grande, grosso, che lavorava come secondo camionista. Non aveva particolari qualità, era troppo modesto, anche per avere dei sogni. Il piccolo camionista dalla faccia sottile, però, aveva dei sogni per lui. Perché non tentare con uno spettacolo televisivo, Jim? Io ci proverei, se avessi il tuo fisico. A loro piacciono come concorrenti i tipi medi che non hanno troppo successo. Tipi così piacciono a tutti. Perché non ti informi? E così si era informato e il proprietario del negozio di televisori gli aveva dato ulteriori spiegazioni. Ma Jim, vedi, il pubblico è stufo, sì, è stufo di atleti altamente addestrati, ma chi può provare qualcosa per gente del genere? Ed è per questo che gli sport organizzati sono in crisi, ed è per questo che gli spettacoli col brivido vanno a gonfie vele. Capisco. Jim, 6 anni fa il congresso ha approvato la legge sul suicidio volontario. Tu lo sai che cosa significa veramente quella legge? Significa che dei dilettanti possono rischiare la propria vita per un grosso bottino. Ma non solo dei professionisti, no. E adesso quell'occasione viene offerta anche a gente comune, sì, come te, Jim. Capisco. Ed è una splendida occasione. Ma tipo, prendi te, tu. Non sei mica meglio di tanti altri. Jim, tu rappresenti la media. Reder si era permesso di sognare. Aveva scritto una lettera ad uno spettacolo chiamato Hazard, allegando una propria foto. Hazard si mostrò interessato. La rete JBC aveva fatto un'indagine e aveva scoperto che lui rientrava nella media quel tanto che bastava per soddisfare anche lo spettatore più diffidente. Alla fine era stato convocato a New York e intervistato dalla signora Mulligan. Andrai bene, ma non per Hazard. Comparirai in Spills. Spills? È uno spettacolo di mezz'ora nella fascia diurna del terzo canale, lo conosci? È un piccolo spettacolo. Il primo e il secondo classificato a Spills passeranno a Emergency. Emergency. E se andrai bene a Emergency, ci sono gli spettacoli del brivido di prima classe come Hazard e Underwater Perils. Puoi farcela, Jim, e ricordati di una cosa: il popolo sei tu e il popolo può fare qualsiasi cosa. Reder aveva firmato un foglio di carta assolvendo la JBC di ogni responsabilità nel caso avesse perso vita, braccia, gambe o la ragione durante la gara, e aveva firmato un altro documento con il quale esercitava i propri diritti secondo la legge del suicidio volontario. E dopo 3 settimane era comparso a Spills. Il programma seguiva la forma classica delle gare di automobili. Piloti non addestrati salivano su potenti macchine da corsa lanciate a piena velocità. Reder tremava di paura quando era partito con la sua grossa Maserati innestando la marcia sbagliata. Ma alla fine aveva intascato $1,000, ricevuto 4 lettere di fan e una signora di Oshkosh gli aveva mandato un paio di calzini. Era stato invitato a comparire a Emergency. Per l'esibizione Reder era stato stordito con un narcotico e si era svegliato nella carlinga di un piccolo aeroplano a 3200 metri di quota con il carburante quasi a zero. Il pilota automatico non c'era ed era pure senza paracadute. Sarebbe dovuto comunque atterrare. Migliaia di spettatori seguivano incantati quell'uomo comune che lottava con quella situazione proprio come avrebbero fatto loro. Anzi, Jim Reder era loro. Lui rappresentava il popolo. Io rappresento il popolo. Reder era riuscito a riportare a terra il velivolo. Era uscito fuori barcollando con 2 costole rotte, $3,000 in tasca e la possibilità, una volta guarito, di partecipare a... Il prezzo del pericolo! E allora erano cominciati i veri guai. La metropolitana si fermò. Si alzò in piedi non appena le porte si aprirono e lanciò un'occhiata al suo orologio. Gli mancavano ancora 5 ore. 5 ore. Alla stazione Messet salì su un taxi e disse al conducente di condurlo a New Salem. Il conducente sbottò, rivolto alla sua radio. Tariffa per New Salem, già proprio così, New Salem. Partirono. Era perfettamente normale che i conducenti di taxi riferissero la destinazione ai loro organizzatori. Ah sì, naturalmente. Però c'era qualcosa nella voce dell'uomo. Mi lasci scendere qui. Pagò il conducente e si incamminò lungo una strada di campagna che si incurvava attraverso un bosco rato. Un grosso camion si stava avvicinando. Continuò ancora a camminare, calcandosi il cappello sulla fronte. Ma quando il camion si avvicinò, un grido uscì dal televisore che aveva in tasca. Si buttò dentro il fossato. Il camion, mancandolo per un pelo, si arrestò con uno stridio di freni. E il conducente stava gridando: eccolo là, spara! Spara, Harry, spara! Le pallottole crivellarono le foglie degli alberi mentre Redder si lanciava di corsa dentro il bosco. Oh no! Sta accadendo di nuovo! Temo che Jim Redder si sia lasciato cullare da un falso senso di sicurezza. Non puoi fare questo, Jim! Non con la tua vita in gioco! Non con dei killer che ti stanno inseguendo! Ascolta, Jim, ti mancano ancora 4 ore e mezza! Harry, lo abbiamo intrappolato! Ma non ti hanno ancora preso, Jim! E puoi ringraziare la buona samaritana Susie Peters del 12 di Elm Street, South Orange, New Jersey, per quel grido di avvertimento proprio quando il camion stava puntando verso di te! Risentiamolo! Attento! Avremo la piccola Susie sul palco fra un momento, gente! Intanto il nostro elicottero dovrebbe essere arrivato sulla scena? Sì, grazie ragazzi! Adesso potete vedere Jim Redder che corre e i killer che lo inseguono lo stanno circa... Redder fece di corsa a 100 metri di bosco e si trovò su un'autostrada di cemento. Uno dei killer stava arrivando di corsa verso di lui. Una macchina si stava avvicinando dall'altra direzione. Redder si precipitò in mezzo all'autostrada agitando freneticamente le braccia. Presto, sali! Redder si tuffò dentro. La donna fece una curva sull'autostrada. Una pallottola trapassò il parabrezza. La donna pigiò sull'acceleratore quasi travolgendo l'assassino che le sparava la strada. È successo di nuovo! Avete mai visto niente del genere, gente? Il modo in cui la Morrow ha guidato attraverso una grandine di pallottole strappando Jim Redder dalla bocca della morte. Intervisteremo più tardi la buona samaritana Janice Morrow del 433 di Lexington Avenue, New York City, e raccoglieremo le sue impressioni dal vivo, ma adesso... Mentre Jim Redder si allontana velocemente, forse verso la salvezza, forse verso, chissà, altri pericoli, abbiamo un breve annuncio da parte del nostro sponsor, Fair Lady Soap. Non andate via. Ok, adesso non siamo più in onda. Redder, cosa diavolo ti sta succedendo? La ragazza doveva avere poco più di 20 anni e Redder notò che aveva dei bei lineamenti, una figura snella, e notò anche che pareva arrabbiata. Signorina, non so come ringraziarla. Senti, parliamoci chiaro, io non sono una buona samaritana, lavoro per la JBC. Il programma mi ha fatto salvare. Un ragionamento intelligente. Senti, questo è uno spettacolo costoso, Redder. Se il tuo indice scende, ci troviamo tutti per strada a vendere mele candite e tu non collabori. Cosa? Perché? Perché sei tremendo! Sei un fallimento, un fiasco! Stai cercando di suicidarti, Cocco? A quest'ora i Thompson avrebbero potuto farti fuori una dozzina di volte. Gli abbiamo detto di prendersela con calma, di allungare i tempi, ma è come sparare su un'oca di gesso alta 2 metri. Se non fossi arrivata io, avrebbero dovuto ucciderti, che fossimo o non fossimo in diretta. Redder la guardò. Ma com'era possibile che una ragazza così carina gli parlasse in quel modo? Non guardarmi così. Sei tu che hai scelto di rischiare la pelle per la grana, Cocco. E anche tanta. Non fare come il piccolo contabile innocente quando scopre che i gangster la stanno inseguendo. È un'altra trama. Lo so. Se non riesci a vivere bene, cerca perlomeno di morire bene. Ma non intenderà parlare sul serio? Non essere troppo sicura, ascolta. Fra pochi istanti saremo di nuovo in onda. Avrò dei guai con il motore, ti farò scendere, capito? Sì, se ci riuscirò potrò rivederti una volta o l'altra. Ma stai cercando di prendermi in giro? No, mi piacerebbe rivederti, posso? Siamo quasi in onda. Redder, attraversa il bosco fino a quando non troverai un crepaccio tra le rocce. Non è molto, ma ti offrirà un po' di riparo. Dove posso mettermi in contatto con te? Redder, comincia a correre! Aspetta. Lo baciò sulle labbra. Buona fortuna, idiota. E lui? Ah, e lui si ritrovò a piedi, a correre nel bosco. Entrò nel crepaccio e si nascose in mezzo ai cespugli, immobile. I Thompson comparvero su entrambi i crinali, avanzando lentamente. Redder trattenne il fiato. Udì lo sparo di un revolver. Disteso nel sottobosco, Redder sentì l'elicottero dello studio passargli sopra la testa. Lanciando un'occhiata al suo orologio, vide che gli rimancavano ancora due ore. E lui... lui non voleva morire. Non ne vale la pena, no? Non importa quanto pagano. Devo essere stato un pazzo. Assolutamente pazzo per aver acconsentito ad una cosa del genere. Ma sapeva che non era vero. E ricordava quando era stato sano di mente. Sì, una settimana prima lui si era trovato sul palcoscenico del Prezzo del Pericolo, sbattendo gli occhi sotto la luce dei riflettori, e Mike Terry gli aveva stretto la mano e... Signor Redder, ha capito le regole del gioco? Se lei accetta, sarà un uomo braccato per una settimana. I killer la inseguiranno, Jim. Killer addestrati, ai quali è stata garantita l'immunità per questa singola uccisione, secondo la legge del suicidio volontario. Cercheranno di ucciderla, Jim. Capisce? Capisco. Capiva. E capiva anche che se fosse arrivato vivo alla fine della settimana avrebbe intascato $200,000. Signore e signori, ho qui con me, la vedete, la copia di un esauriente test psicologico. Questo test dimostra che Jim Redder è sano di mente, equilibrato e pienamente responsabile sotto ogni possibile aspetto. Vuole ancora partecipare alla gara, Jim? Sì, lo voglio. Molto bene! Redder riflette. Insomma, era stato lui a scegliere, ricordò se stesso? Cioè, era soltanto lui il responsabile? Eppure, fino a che punto erano responsabili gli psicologi che l'avevano sottoposto al test? Fino a che punto era responsabile Mike Terry per aver offerto ad un povero uomo tutti quei soldi? Ma di chi era veramente la colpa? Ah, eccolo qui! Redder alzò lo sguardo e vide un uomo corpulento in piedi accanto a lui. Imprecando ricominciò a correre. Uscì dal crepaccio e vide un edificio bianco in lontananza. Si lanciò verso di esso. I killer avevano ripreso a sparare. Redder corse inciampando su terreno irregolare. Raggiunse i gradini dell'edificio e vide che era una chiesa. E mentre apriva la porta, una pallottola lo colpì dietro la rotula destra. Cadde e strisciò all'interno della chiesa. Che finale, gente! Che finale! Redder è stato colpito! È stato colpito e adesso sta strisciando, lo vedete? Soffre terribilmente, ma non si è arreso, non Jim Redder! La porta della chiesa venne spalancata con violenza, ma Redder chiamò a raccolta le proprie forze e oltrepassò l'altare strisciando. E uscendo sul retro, si trovò in un vecchio cimitero, superò strisciando croci, stelle di David. Una pallottola esplose su una lapide vicino alla sua, facendoli cadere addosso una pioggia di frammenti. Strisciò fino all'orlo di una tomba aperta e poi ci scivolò dentro. Giacque supino guardando il cielo. Azzurro. E dopo un po'... una sagoma nera si profilò sopra di lui, cancellando il cielo. Il metallo luccicò, la sagoma prese lentamente la mira e Redder... Redder lasciò ogni speranza. Fermo! Thompson! Sono le 5:01. La settimana è finita! Jim Redder ha vinto! Ha vinto, amici! Guardate adesso il vostro schermo. La polizia è arrivata, stanno allontanando i Thompson dalla loro vittima. E tutto questo grazie a voi, buoni samaritani d'America. Guardate, guardate. Mani amorevoli stanno sollevando Jim Redder dalla tomba spalancata che è stata il suo ultimo rifugio. La buona samaritana Janice Morrow si trova là. Possibile che questo sia l'inizio di una storia d'amore? Sembra che Jim sia svenuto, amici. Sì. Gli stanno somministrando uno stimolante. Beh, ha vinto $200,000. Adesso sentiremo qualche parola da Jim Redder. Breve silenzio. Temo proprio che in questo momento non ci sia possibile ascoltare la voce di Jim. I dottori lo stanno esaminando. Un momento solo. Mike Terry si asciugò la fronte e sorrise. La tensione, gente. La terribile tensione. I dottori dicono... Bene, che temporaneamente Jim Redder non è più se stesso. Ma è soltanto una cosa temporanea. La JBC assumerà i migliori psichiatri del paese e faremo tutto ciò che è umanamente possibile per questo coraggioso ragazzo. Mike Terry lanciò un'occhiata all'orologio dello studio. È giunto il momento di concludere la trasmissione, gente. Fate attenzione all'annuncio del nostro prossimo grande spettacolo del brivido e non preoccupatevi, sono certo che molto presto avremo Jim Redder di nuovo con noi. Sorrise e strizzò l'occhio al pubblico. Guarirà per forza, amici, dopotutto non stiamo tifando tutti per lui. Thank you. 20th century. This world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro of the earth about their affairs, serene in the assurance of their dominion over this small... La nave calava dagli spazi cosmici, dalle nere lontananze. Veniva dai silenti colfi dello spazio. In tutto portava 17 uomini, compreso il comandante. E ora decelerava con metallica precisione nelle regioni superiori dell'atmosfera marziana. Gli uomini racchiusi al suo interno erano indolenziti. Uno era morto, ma i 16 superstiti, le facce premute contro gli spessi cristalli degli oblò, ora guardavano Marte ondeggiare ampio ai loro piedi. Marte, il caro vecchio Marte. Il razzo scese su un prato ricoperto di molle erbetta. Sul prato campeggiava un cerbiatto di ferro e più oltre ai margini del prato c'era un'alta casa rossiccia in stile vittoriano, tutta decorata di fronzoli e ghirigori rococò. Sulla veranda si vedevano gerani pelosi. Dalle finestre si poteva vedere lo spartito di Beautiful Ohio sul leggio del pianoforte. Attorno al razzo, in quattro direzioni, si stendeva la cittadina, verde e addormentata nella primavera marziana. C'erano casette bianche, altre tutte rosse, grandi olmi che frusciavano al vento, ippocastani maestosi e aceri altissimi. Gli uomini del razzo guardarono fuori e videro tutto questo. I loro volti si erano fatti pallidi. Mi sembra di sognare. È semplicemente assurdo. Gran Dio. Usciamo. Un momento. Che ne sappiamo di questo posto? Sappiamo che è un paese come ce n'è tanti sulla Terra, con aria rarefatta ma abbastanza ossigenata, comandante. Sì, un paesino come ce n'è tanti sulla Terra. Questo è incredibile, assurdo. Lei ritiene, Ingston, che le civiltà di due pianeti possano progredire di pari passo e con lo stesso ritmo ed evolversi lungo le stesse linee? Non avrei mai creduto una cosa simile, comandante. Ma guardi là! I gerani! C'è una pianta specifica. E pensi alle migliaia di anni che sono occorsi all'evoluzione delle piante e poi mitica. Se le sembra logico che i marziani debbano avere uno, finestre con vetri piombati, due, cupole, tre, divani a tondolo da veranda, quattro, uno strumento che ha tutta l'aria di essere un pianoforte e che quasi certamente lo è, e cinque. Guardi, guardi attraverso queste lenti telescopiche e mi dica se è logico che un compositore marziano abbia pubblicato qualcosa intitolato... È pazzesco. Beautiful Ohio. Accidenti. Io voglio scendere e visitare questo paese, naturalmente col suo permesso, comandante. Potrebbe darsi che esiste un parallelismo evolutivo nell'incivilimento per tutti i pianeti del sistema solare. Forse siamo sulle soglie della più grande scoperta psicologica e metafisica, chissà, del nostro tempo. È una cosa che mi colma di una tale emozione che non so se scoppiare in lacrime o mettermi a ridere come un bambino. Quando sei nato, Lustig? Nel 1950, comandante. E lei, Ingston? Nel 1955, a Green, nell'Iowa, e questo paese assomiglia incredibilmente al mio. Sentitemi, Ingston e Lustig. Io ho 80 anni. Sono nato nel 1920 nell'Illinois. Ma per grazia di Dio e della scienza che negli ultimi 50 anni ha restituito la gioventù ad alcuni vecchi, io mi trovo ora su Marte infinitamente più cauto e sospettoso. Questa cittadina ha un'aria straordinariamente fresca, serena, così simile a Grand Bluff, Illinois, che mi spaventa. Sai cosa faremo, Lustig? Tu, Ingston e io andremo a dare un'occhiata al paese. Gli altri resteranno a bordo. La perdita di 3 uomini è sempre meglio di tutta la nave. Giornata splendida di primavera. Un pettirosso accoccolato sui rami di un melo cantava senza posa. Da qualche parte, in paese, c'era chi suonava un pianoforte. La musica andava, veniva. Beautiful Dreamer. In un altro punto un fonografo gracidava sul disco Roaming in the Gloaming. I 3 uomini rimasero accanto alla nave, poi, aspirando in gran fretta l'aria sottile, si mossero lentamente. Comandante, non può esserci un'altra spiegazione. I voli tra la Terra e Marte devono essere cominciati negli anni che precedettero la Prima Guerra Mondiale. No. Come spiegare in altro modo queste case? Il cerbiatto di ferro, i pianoforti, la musica. Supponiamo che nel 1905 sia esistito un certo numero di persone che odiavano la guerra e che, d'accordo con alcuni scienziati, abbiano costruito segretamente un razzo per fuggire su Marte. Sarebbero venuti a stare qui per sempre e si capisce, le case che avrebbero costruito sarebbero state come quelle che conoscevano sulla Terra. E sarebbero vissuti tutti questi anni? Sereni e tranquilli, sì. Ecco perché la cittadina sembra vecchiotta. Non riesco a vedere niente di posteriore al 1927. Forse, comandante, l'astronautica è molto più antica di quanto crediamo. Quasi, quasi. Riesci a farmelo credere. Non può esserci altra spiegazione. Non dobbiamo fare altro che trovare qualcuno che ci permetta di toccarla con mano. Misero piede sulla veranda e andarono alla porta schermata. Si vedeva una cortina di perline sulla soglia, un lampadario di cristallo e una comoda poltrona Morris. La casa sapeva di antico. Sembrava quasi di sentire il ticchettio del ghiaccio in una caraffa di limonata. Un rumore di passi lieve si avvicinò nel corridoio e una signora dal volto soave, di una 40 anni, vestita come doveva essere di moda nel 1909, aguzzò gli occhi su di loro. Hanno bisogno di qualcosa? Voglia perdonarci, ma noi vorremmo sapere, o per meglio dire, insomma, lei non potrebbe favorirci? E se si tratta di qualcosa che loro vogliono vendere? Ah, no. Come si chiama questo paese? Che cosa intende col suo come si chiama questo paese? Che noi siamo forestieri qui e vorremmo sapere come questa cittadina sia sorta qui e come abbia fatto lei, signora, a trovarci. Lor signori sono addetti al censimento? Ah, no. Tutti sanno che la nostra cittadina fu costruita nel 1868. È uno scherzo? No. Noi veniamo dalla Terra, signora. Dal terreno vuol dire dalla campagna. Sono agricoltori? No. Io voglio dire che noi veniamo dal terzo pianeta del Sole, il pianeta che noi chiamiamo Terra. Sì, a bordo di un'astronave. E siamo atterrati qui, sul 4° pianeta del Sole, il pianeta che noi chiamiamo Marte. Qui? E siamo a Green Bluff, Illinois, sul continente americano, in un globo detto il mondo, e talvolta la Terra. Ora se ne vadano. Buongiorno. E si allontanò trotterellando per il corridoio dopo essersi lasciata scorrere la tenda di perline tra le dita. I 3 uomini si guardarono l'un l'altro. Non le è venuto il dubbio, Ingston, che noi ci si sia smarriti nello spazio e per caso si sia finiti di nuovo sulla Terra? No, impossibile, ce ne saremmo accorti. Signore, ho bisogno di pensare. Ma se per un incidente di natura spazio-temporale ci fossimo smarriti nelle dimensioni del continuum, tornando sulla Terra di 30-40 anni... Ah, piantala, Lustig! Lustig tornò davanti alla porta finestra. In che anno siamo? Nel 1926! Oh, bella! Rispose la signora, che seduta su una poltrona a dondolo sorseggiava una limonata. Avete sentito? Il 1926... Siamo tornati indietro nel tempo. Questa è la Terra. Io stiamo giocando con qualcosa di pericoloso. Alludo al tempo. Non faremmo meglio a tornarcene sulla Terra? Cerchiamo di essere logici e razionali. Allora, mettiamo Ingston, come lei ha supposto originariamente, che l'astronautica abbia avuto inizio molti anni fa. e che i terrestri, dopo un certo numero di anni di permanenza quassù, siano stati presi dalla nostalgia per la Terra. Insomma, prima una nevrosi leggera, poi una vera e propria psicosi. Ma che cosa farebbe lei, se fosse uno psichiatra, di fronte ad un problema come questo? Beh, riorganizzerei la civiltà su Marte in modo da renderla ogni giorno più simile a quella terrestre. Poi, mediante una vasta forma di suggestione collettiva, convincerei gli abitanti di una cittadina come questa, per esempio, che siamo sulla Terra e non su Marte. Abbastanza ragionevole, Inkston. Forse siamo sulla strada buona ora. La donna che abbiamo visto poco fa è convinta di vivere sulla Terra. Lei e tutti gli altri abitanti della cittadina sono i pazienti del più grande esperimento di migrazione e ipnosi su cui poseremo gli occhi in vita nostra. È così, comandante. Esattamente. Bene, bene, bene, bene. Forse siamo arrivati a qualcosa di simile ad una soluzione. Tutto appare un po' più logico. Bene, bene, bene, bene. Bussiamo a quella villetta ora. Su, su, andiamo. Si erano appena incamminati sul prato davanti alla casa quando Lustig si fermò di colpo. Comandante. Sì, che c'è, Lustig? Comandante, quello che vedo è... Cominciò a piangere. Sembrava che stesse per impazzire di gioia. Ehi! E si mise a correre. Guardate! Incespicando. Ehi! Andava velocissimo, urlava. Svoltò in un prato davanti ad una casa ed in tre passi fu nel patio di un bel villino verde. Si era messo a picchiare alla porta. Urlava, chiamava qualcuno. Il capitano Black e Inkston gli arrivarono alle spalle. Nonna! Due vecchietti erano sulla soglia. Si lanciarono ad abbracciarlo, a battergli le mani sulle spalle e a girargli intorno per guardarlo meglio. David, come sei cresciuto? Come stai? Nonno, come vi trovo bene. Come siete belli. Lustig li strinse tra le braccia e li faceva rigirare, li baciava, singhiozzando di gioia. Entra, David, vieni dentro. C'è del tè freddo, tutto il tè freddo che vuoi. Ho degli amici, come... Molto piacere. Si accomodino, non restino là fuori. Ma da quanto tempo siete qui, nonna? Fin dal giorno in cui morimmo. Fin da che giorno? Sono morti da 30 anni. Sì. E tu te ne stai lì seduto come se niente fosse. Chi siamo noi per voler giudicare quello che accade? Siamo qui, ancora vivi, senza far domande. E allora, che senso ha voler sapere il perché e il per come? Vede, signora, è che noi non ci aspettavamo di trovare una cosa simile su Marte. E invece l'avete trovata. Oso dire che su ogni pianeta ci sono innumerevoli cose che mostrano le infinite vie del Signore. È forse il paradiso questo? No, che sciocchezza! È un mondo su cui ci è stata offerta una seconda occasione di vivere. Nessuno ci ha spiegato il perché. È vero che nemmeno ci è mai stato detto perché fossimo sulla Terra, del resto. L'altra Terra, intendo. Quella da cui voi venite. E chi ci dice che non ce ne sia stata un'altra ancora, prima di quella? Domanda che meriterebbe una risposta. Bene, ora noi dobbiamo andare, grazie per il tè. Tornerete, non è vero? Vi aspettiamo stasera a cena, naturalmente. Cercheremo di venire, grazie, ma ci sono così tante cose da fare, gli uomini aspettano il mio ritorno a bordo del razzo per... Si interruppe, lo sguardo fisso su un punto oltre la porta. Aveva un'espressione di grande perplessità, in lontananza. Nel sole si sentiva un rumore di voci, grida, evviva. Il capitano Black uscì rapidamente e si spinse sul viale della cittadina marziana. Si fermò per voltarsi a guardare il razzo. Gli sportelli erano spalancati e l'equipaggio ne sciamava fuori, agitando le mani. Una piccola folla si era raccolta intorno al razzo e in mezzo a quella gente... Gli uomini della nave correvano a disperdersi, parlavano, ridevano, stringevano mani. Una banda di ottoni esplose nel sole. Bambini urlavano, evviva, urrà! Il sindaco fece un discorso. Poi ogni membro dell'equipaggio, con la madre a un braccio, il padre o una sorella all'altro braccio, scomparvero in fondo al viale. Fermatevi! Gli rispose lo schianto delle porte che si chiudevano. Tutto era silenzio. La banda era scomparsa lasciando il razzo brillare nella solitudine. Abbandonata. Hanno abbandonato la nave. Ecco quello che hanno fatto. Comandante, non sia troppo severo con loro. Quelli erano tutti i parenti, persone care. No, non ci sono scuse per l'abbandono del proprio posto. Ma lei che cosa avrebbe fatto, comandante? Io avrei obbedito. Black rimase a bocca aperta perché lungo il marciapiede, sotto il sole di Marte, veniva avanti a passi rapidi un giovane di circa 26 anni, sorridente, gli occhi straordinariamente limpidi. Che cosa? Sei tu? Certo che sono io. Chi credi che sia? Edward. Mio fratello Edward. Ed stai benissimo. Ma che cosa significa? Tu sei morto da 26 anni. Eppure io adesso ti vedo qui come allora. Ed, che cosa sta succedendo? Su, vieni. La mamma ci aspetta. La mamma? Sì, e anche papà. La mamma e papà sono vivi, ma dove? Nella nostra vecchia casa di Oak Knoll Avenue. La nostra vecchia casa? Avete sentito? Lustig, Ingston! Ingston se n'era andato. Aveva visto la propria casa in fondo alla strada e si era messo a correre. Lustig rise. Comandante, vede quello che è successo agli uomini rimasti a bordo? È stato più forte di loro. Sì, capisco. Su, vieni, il pranzo è già pronto, la mamma ti aspetta. Comandante, se avesse bisogno di me, sono dai miei vecchi. E com'è? Ah, sì, d'accordo, Lustig, certo. Ci vediamo più tardi, dunque. Eccola là, la casa. Te la ricordi? Fu un lungo pomeriggio delizioso. Finirono di mangiare tardi e poi passarono in salotto dove lui raccontò tutto dell'astronave. Per cena c'era un grosso tacchino e il tempo scorreva rapido, inavvertito. Dalle case lungo il viale venivano frammenti di canzoni, accordi di pianoforte, sbattere di porte. La mamma sistemò un nuovo rullo nella pianola e il capitano Black fece un giro di danze con lei. Era così reale e concreta tra le sue braccia. Non capita tutti i giorni una seconda occasione di vivere. Io mi sveglierò domani mattina e sarò a Porto Terrazzo, sì, nello spazio, e tutto questo sarà finito. Oh, non pensarlo. Non fare domande. Sei stanco, figlio. La tua vecchia camera da letto ti aspetta. Col solito lettino di ferro e tutto il resto. Ma io devo assicurarmi che i miei uomini siano a bordo. Perché? E perché? No, nessun motivo. Una buona notte di riposo non potrà farmi male, immagino. Buonanotte, figlio mio. È così bello averti di nuovo a casa. È bello essere a casa. Lasciò quell'isola profumata di sigaro, di libri, e salì le scale, parlando interminabilmente con Edward. Ed spalancò la porta. Il letto dai pumi gialli di ottone. Sollevò con uno strappo le coperte candide, poi alzò i vetri della finestra perché la notte satura di gelsomino penetrasse nella camera. C'era il chiaro di luna. E questo dunque è Marte. È Marte. E la luce fu spenta. Tra gli alberi sul prato un fonografo ora suonava Always. Il capitano, per la prima volta, si accorse di poter pensare logicamente. Era stata tutta emozione, la banda, i volti familiari, ma ora... No, ma come può avvenire tutto questo? Cioè, la mamma, il babbo, Edward, Marte, la Terra, Marte, i marziani... I marziani... No, ma chi viveva su Marte 1000 anni fa? I marziani... Forse le cose sono sempre state come oggi, con i marziani. Rise quasi ad alta voce. I marziani. Ad un tratto gli era venuta in mente una stranissima teoria che gli dette un brivido, estremamente improbabile, assurda da non pensarci più. Ma sì, supponendo che su Marte vivessero i marziani e che, vedendo venire la nostra nave, vedessero noi dentro la nave e ci odiassero. E poi, sempre supponendo, così per gusto l'ipotesi, che volessero annientarci, noi invasori, e intendessero farlo in modo molto abile. Ma quale sarebbe il mezzo migliore di cui un marziano potrebbe servirsi contro i terrestri dotati di armi atomiche? E se poi le case e il letto non esistessero per niente, ma fossero prodotti della mia immaginazione, se le case avessero tutta un'altra forma, sì, una forma marziana, ma sfruttando i miei desideri, i miei bisogni, i miei ricordi. Insomma, quale miglior sistema per ingannare un uomo che usare suo padre e sua madre come esca? E questa cittadina, che risale proprio a quando io avevo 6 anni e davanti alle porte si usavano le cortine di perline e si suonava Beautiful Ohio. Beautiful. E chi mi dice a me che i marziani non abbiano tolto i ricordi e le immagini della cittadina proprio dalla mia di mente, e che poi dopo aver costruito l'ambiente dei miei ricordi l'abbiano popolato con le persone amate, tolte dalla mente di tutto l'equipaggio? Diverse mentre il razzo se ne sta ritto al chiaro di luna, solo come un obelisco. E se a un certo punto mio fratello, che ora dorme nel letto accanto al mio, comincerà a cambiare forma, si scioglierà, diventerà un'altra cosa, una tremenda creatura, e nelle case lungo il viale un'altra dozzina di padri, fratelli, dissolvendosi bruscamente per diventare un'altra cosa, le creature che veramente sono, potrebbero uccidere, straziare in chissà quali modi terrestri, ignari, addormentati. Le mani gli tremavano sotto il lenzuolo, il corpo era freddo, e a un tratto non fu più una supposizione. Black fu colto dal terrore, si mise a sedere. La notte era immersa nel silenzio, la musica era cessata, il vento caduto. Suo fratello dormiva accanto a lui. Con estrema cautela il capitano alzò le coperte e scivolò dal letto. Stava attraversando la stanza in punta di piedi quando una voce gelida, quella di suo fratello, domandò: dove vai? Che cosa? Ti ho chiesto dove vorresti andare. A bere un po' d'acqua. Ma tu non hai sete? Sì, ho molta sete. No, non è vero. Allora il capitano John Black si lanciò in corsa attraverso la stanza, cacciò un urlo, urlò 2 volte, ma non arrivò mai alla porta. La mattina dopo la banda suonò un'aria funebre. Da ogni casa del viale uscivano piccole processioni solenni e ognuna trasportava un feretro. E nella strada assolata, piangendo, sfilavano le nonne, le mamme, le sorelle, i fratelli, gli zii, i padri, tutti in cammino per il cimitero dove erano state scavate le fosse e nuove lapidi erano già sulle tombe. 16 fosse in tutto, 16 lapidi, Il sindaco fece un discorsetto triste, mentre la sua faccia sembrava a volte essere quella del sindaco, a volte tutt'altra cosa. C'erano i vecchi coniugi Black, il fratello Ed, i nonni di Lustig che piangevano disperati mentre i loro volti ogni tanto si trasformavano da volti familiari che erano in qualche altra cosa. I feretri furono calati nelle fosse. La banda di ottoni, suonando Columbia, The Gem of the Ocean, si pose in marcia per tornare a colpi di gran cassa in città e tutti si presero una giornata di vacanza. Ero seduto alla mia scrivania e cercavo di godermi il silenzio del tardo pomeriggio, quando entrò Hickins, l'allenatore, arrabbiatissimo. Benissimo, preside Dean. Niente campionato e niente football per questa stagione. Che succede? King e Martin, signor Dean. Altri due ragazzi che quest'anno non giocano. Ma sono i più bravi. Appunto! Mi sono praticamente inginocchiato davanti a loro. Li ho scongiurati. Niente, signor Dean. La squadra si è praticamente svuotata e sa qual è il problema vero? Che non va bene. Un simile disinteresse non è indice di buona salute. Ma loro cosa dicono? Perché fanno questo? Ecco la cosa più incredibile. Dicono che il football interferisce con lo studio, ma a lei sembra normale. E che non sembrano ragazzi, sa? Già, si comportano sempre come adulti. E comunque non c'è niente che io possa fare per il football. Ma... Sbuffando e irritato, l'allenatore uscì dall'ufficio. Mi giunse il brontolio di un piccolo robot che puliva le aule. Da quando l'uomo era andato sulle stelle, il lavoro lo facevano i robot. E quanto a me, io non sarei mai partito. Non ho famiglia, moglie, figli, scuola. Scuola, scuola. La scuola è stata per me tutto questo. Ed io ne sono soddisfatto. L'unico ragazzo della scuola che fosse partito con un'astronave è stato Lemon Stice, praticamente fuggito, quasi cacciato dalla scuola per scarso rendimento e cattiva condotta. E invece aveva fatto fortuna e l'ultima volta che era tornato a Melville aveva portato con sé le bambinaie, comprando la sua vecchia casa proprio per loro. Creatore davvero... strambe queste bambinaie. In quel momento sentì arrivare il vecchio Staffi con il suo pasto strascicato. Sicuramente veniva a fare quattro chiacchiere come sempre. Ha sentito del football, signor Dean? È colpa di quelle bambinaie. Sono loro la causa di tutto. Che idea, Staffi? Io so, lo so. Li vedo da anni questi ragazzi. E quelli che sono stati allevati dalle bambinaie si riconoscono lontano un miglio, signor Preside. Favole, solo perché vengono da un altro pianeta. Sì, ma queste qui sono strane. Staffi vivono qui ormai da così tanto tempo e si sono guadagnati onestamente da vivere. Li hanno cambiati. E come? Li hanno fatti crescere troppo in fretta, signor Preside. Sono ancora alle scuole medie, ma sono già adulti. Adulti. Quando attraversai il corridoio per uscire dalla scuola e tornare a casa, diedi uno sguardo dentro le aule. Vidi una folla di piccoli visi, visini seri, dagli occhi enormi, dall'espressione indecifrabile. Riconobbi quell'espressione. L'inizio dell'età adulta. Mi hanno fatti crescere troppo in fretta. Troppo in fretta. No, non può essere. Eppure pensai alle altissime medie scolastiche di quei ragazzi, all'eccezionale numero di borse di studio, al disinteresse per lo sport e perfino all'assenza di delinquenza a Melville. Uscendo passai un momento dalla guardiola di Staffi. Staffi? Sì. Ti ricordi Lemon Stiles? Oh, sì. Combinava sempre pasticci, Stiles. Ma era orfano, poveretto, e non c'era nessuno che lo aiutasse. Quando se n'è andato mi ha detto che un giorno sarebbe ritornato e avrebbe ricompensato i suoi concittadini come meritavano. Il sole era prossimo al tramonto quando uscì dalla scuola e mi avviai lungo il viale. Camminando per le strade di Melville, pensai... Strano che una cittadina così provinciale abbia accettato quelle creature con... tanta facilità. Ed è ancora più strano che le madri gli affidino i loro figli, portandoli addirittura nel loro asilo nido, la vecchia casa di Stiles. Le ombre della sera si erano già addensate intorno a me. Dopo cena capì che non potevo rimandare la cosa, anche se avevo paura, sì. Mi incamminai così per le vecchie strade della cittadina. Ora ero davanti alla casa di Stiles. Era circondata da alberi ricchi di fronde, il cortile era ricoperto di cespugli incolti. E certo, non potevano curare anche il giardino, non erano ricche, non accettavano soldi per il loro lavoro, solo cibo e piccoli regali. Dietro le finestre si vedeva la luce. Le bambinaie erano in casa. Alla porta comparve una di loro, sottile, elegante, con il viso, se di viso si poteva parlare, dolcissimo. Troppo dolce forse, talmente dolce da non avere un carattere, forse neppure una vera personalità individuale. E avevano un tale aroma di innocenza da cancellare ogni altra espressione. Signor Tin, entri, la prego. Siamo molto onorate della sua visita. Grazie. Mi fecero accomodare su una poltrona. Ogni cosa era dolce, amichevole, ma c'era un tocco alieno, allarmante. Da un punto della casa mi giunse la risata di alcuni bambini e quando si spense continuò ad echeggiare. Mi sembrava di essere sospeso nel tempo mentre giungeva un alito di brezza e l'odore di lenzuola freschi di bucato. Questa stanza è così riposante. Mi sentii sprofondare nella mia giovinezza. Eppure la stanza era molto vecchia, polverosa, tarlata, piena di cianfrusaglie, ma io avevo la sensazione di essere a casa mia. Mi alzai. Le risate erano scomparse, ma il senso di giovinezza e di felicità rimanevano. Desiderava qualcosa, signor Dean? Scossi la testa. D'improvviso scorsi sul pavimento una trottola che girava, una trottola d'oro che rifletteva la luce ed emanava una melodia. E mentre una felicità sempre più grande mi gorgogliava in cuore, io cercai di afferrare la trottola, ma scomparve. E la felicità svanì. Ed io ero solo un vecchio, sulla soglia di una casa sconosciuta. Ci dispiace, c'è quasi riuscito. Forse un'altra volta. Mi salutarono e mentre mi allontanavo per il vialetto la sentii dire: ritorni a trovarci, saremo lieti di averla con noi. Mi sembrava che l'orrore adesso si facesse largo in me. Orrore di qualcosa che si nutriva di giovinezza e di bellezza. Come un'affamata forma di vita che divora l'infanzia. Eppure, ripensai ai miei studenti, gentili, educati. Con loro dimenticavo di essere un vecchio. Ecco che cos'era. E forse era questa la moneta con cui le bambinaie pagavano la fanciullezza da loro rubata. Ma davvero poi le bambinaie rubavano l'infanzia? No, non esattamente, loro non la rubavano, la catturavano per metterla da parte. Loro conservavano qualcosa che comunque sarebbe andata perduta e che un uomo non poteva custodire se non nella propria memoria. Mi domandai che cosa sarebbe successo se io fossi riuscito ad afferrare la trottola. Ecco lo scopo di Lemon Stiles, il suo regalo. Mi avviai verso casa sentendomi più leggero, con un'andatura che mi parve un po' più veloce del solito. Non zoppicavo più. Pensavo a Staffi e agli altri amici vecchi, malandati come me. Avrei dovuto dirigermi verso casa, invece mi ritrovai di nuovo lungo il vialetto e vidi che la luce era ancora accesa. Nella mia mente si affacciò il pensiero: chi siamo? Io, Staffi, il vecchio Hawkins, siamo tanti. La porta si spalancò e sulla soglia comparvero le bambinaie aggraziate ed eleganti, per nulla sorprese. Siamo liete che abbia deciso di ritornare. Tutti i bambini se ne sono andati. Possiamo scambiare tranquillamente qualche parola. Entrai e mi accomodai nuovamente sulla poltrona. Ancora una volta i bambini correvano nella stanza e risate infantili echeggiavano. Rimasi fermo a meditare. Le bambinaie erano in attesa. Era difficile, pensai, difficile trovare le parole giuste. Le bambinaie aspettavano, erano pazienti e io dovevo dirlo bene. Dovevo farmi capire. Ma come? Come avrei potuto renderlo logico? Non c'era proprio nulla di logico nel fatto che uomini vecchi come me e Staffi avessero bisogno di bambinaie. Sono già le 7, levati su, levati su. E continuava a ticchettare, ripetendo. Tic-tac, tic-tac. Ripetendo all'infinito. Tic-tac, tic-tac. Il suo tic-tac. 7:18 il caffè e latte, 7:18 il caffè e latte. In cucina i fornelli della colazione sibilarono. Tic-tac, tic-tac. E dall'interno della stufa il forno spense fuori 8 8 tartine tostate, 8 uova fritte su 16 fette di pancetta, 2 caffè e 2 bicchieri di latte. Oggi, 4 agosto 2026, disse una voce dal soffitto della cucina. Oggi è il compleanno del signor Firston. È l'anniversario delle nozze di Tilita. Pagare assicurazione, bollette dell'acqua, gas, luce. 8:10, tic tac, 8:10, tic tac. Presto, a scuola, su al lavoro. Ma non si udiva nessuna porta. 8:10, su al lavoro. Su nessun tappeto risuonava il passo di sovrascarpe gommate. E fuori pioveva. La cassetta meteorologica sulla porta cantilenava. Pioggia, pioggia, vai lontano. La pioggia. Oggi ognuno al suo gabbano. Tamburellava sulla casa deserta. Pioggia, pioggia, echeggiando. Pioggia, pioggia, pioggia. Fuori. Pioggia, pioggia, pioggia. Il garage. Pioggia. Al suono pioggia, di alcuni rintocchi sollevò la saracinesca pioggia, mostrando l'auto. Pioggia. In attesa. Pioggia. Passò molto tempo. E infine la saracinesca calò di nuovo. Pioggia, pioggia, pioggia. Alle 8:30 le uova erano carbonizzate, le tartine pietrificate, i recipienti e i piatti sporchi furono calati nell'acqua bollente per emergerne scintillanti e perfettamente asciutti. 9:20 ripulire, 9:20 spazzolare, 9:20 spolverare. Da una specie di conigliera nella parete saltò fuori una frotta di topolini meccanici, sciami di minuscoli automi che pulivano la casa, succhiando delicatamente ogni granello di polvere nascosto. Sono le 10. La casa si levava solitaria in una città di macerie e di ceneri. Unica casa rimasta in piedi. 10:15. Gli spruzzi d'acqua sul prato del giardino s'accrebbero forticosi fino a diventare fontane tic-tac, che colmavano tic-tac l'atmosfera mattutina di scintillanti riflessi. Tic-tac, tic-tac, tutto il lato ponente della casa, dove la parete era stata bruciata dal fuoco, era nero. Si intravedeva un solo sagoma piatto. Tic tac, tic tac. La sagoma dipinta di un uomo intento a sarchiare un prato. Tic tac. Una donna china a raccogliere fiori. Tic. Un bambino. Tac. Le braccia alzate a lanciare una palla e una ragazza tic-tac con le mani tese per prenderla. La palla non sarebbe scesa mai. Tic tac, tic tac, tic tac. Fino a quel giorno. La casa aveva continuato a chiedere chi la è parola d'ordine. Qual è la parola d'ordine? E poiché non otteneva risposta, aveva chiuso le finestre e abbassato le cortine. Fremeva ad ogni suono. Mezzo di la casa. Un cane guaì lungamente sulla veranda. La porta di casa riconobbe la voce del cane e si aprì. Tic-tac, il cane, enorme un tempo e ben pasciuto, ora ridotto a scheletro, ricoperto di piaghe, entrò. Tic-tac, lo seguivano torme di topi affamati. Il cane salì le scale, uggiolando davanti a ogni porta fino alla cucina, dove la stufa preparava frittelle che riempivano la casa di un buon profumo di pasticceria e di sciroppo. Tic-tac, tic-tac, il cane si mise a raspare freneticamente e poi a rincorrersi selvaggiamente in tondo, mordendosi la coda fino a che ne morì. 14:35. Cantò una voce. Tavoli da bridge emersero con uno scatto dai muri del patio. Carte da gioco pioffero sul tappeto in una cascata di gettoni, dei martini. Si materializzarono su una panca di quercia con tartine d'insalata russa. Una musica suonava. Alle 4 del pomeriggio i tavoli si ripiegarono entro i muri a pannelli. 16:30. Le pareti della camera si illuminarono trasparenti. Era l'ora dei bambini. Gli animali presero forma. Giraffe gialle, leoni, antilopi, pantere rampanti, cristalline, le pareti di vetro. 5:00. La vasca. 5:00. Si riempiva di acqua limpida. 6:00. Calda. 7:00. I piatti del pranzo venivano apparecchiati. 8:00. E sulla mensola di metallo davanti al caminetto un sigaro saltò su, già con 2 centimetri di morbida cenere, su una delle estremità. 9:00. Fumante. Già alle 9. In attesa. Già alle 9? Mentre i letti si riscaldavano grazie ai circuiti elettrici, una voce domandava dal soffitto dello studio. Signora McClellan, che poesia preferisce stasera? La casa taceva. Poiché oggi non esprime nessuna preferenza, sceglierò una poesia a caso. Sarah Tisdale. Se non erro, la sua preferita. Cadrà dolce la pioggia e si diffonderà il profumo della terra. Le rondini voleranno in cerchio stridendo. Canteranno le rane negli stagni a notte alta. E la stessa primavera, quando si leva all'alba, s'accorgerà appena che ce ne siamo andati. Il fuoco ardeva nel caminetto e il sigaro cadeva silenziosamente in un mucchietto di cenere sul suo piattino. Le poltrone vuote si guardavano in faccia tra loro, fra le pareti mute, e la musica continuava a suonare. Alle 10 la casa cominciò a morire. Il vento soffiava. Il ramo di un albero sfondò la finestra della cucina. Del solvente per smacchiare si sparse sulla stufa. La cucina fiammeggiò in un istante. Il fuoco! Il fuoco! Tutte le luci della casa si accesero. Getti d'acqua spruzzarono da ogni soffitto, ma il solvente s'era sparso sul linoleum e continuava la sua marcia divoratrice, mentre voci d'ogni stanza si univano in coro ad urlare: il fuoco! Il fuoco! Il fuoco! Il fuoco! Il fuoco, il fuoco! La casa chiuse le porte ermeticamente, ma le finestre si spezzavano per il calore. Il fuoco! E il vento, ingolfandosi nelle camere, ravvivava l'incendio. Il fuoco! Passava con fiammeggiante leggerezza da una camera all'altra e infine prendeva a salire le scale. Il fuoco! Topi antincendio sciamavano fuori dalle loro tane e schizzavano la loro pompetta d'acqua e correvano a prenderne dell'altra. La casa rabbrividì tutta quanta. Aiuto! Aiuto! Il fuoco! Il fuoco! Il calore faceva scoppiare gli specchi. Aiuto! E nella camera dei bambini la giungla ardeva. Aiuto! Le voci si misero ad annunciare l'ora, a suonare ariete, a tosare il prato, a chiudere, spalancare porte, tutto assieme come per un congegno impazzito. Poi cominciarono a morire. Una ad una. In cucina la stufa preparava colazioni a un ritmo frenetico. 10 dozzine di uova. Sei enormi pagnotti di tartine, 20 dozzine di fette di pancetta, aiuto, e il fuoco aiuto, divorava aiuto, tutto il aiuto, aiuto! Il solaio precipita in cucina e nel salotto, il salotto in cantina, la cantina nel sottosuolo! Fumo. E silenzio. Tic. Tac. Un'enorme tic quantità di fumo. Tac. Tac, tac, tic, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tac, tic, tac, tac. L'alba comparve fioca a oriente. Tra le rovine una muraglia si levava solitaria. Un'ultima voce diceva, ripeteva, infinite volte, ancora. E sempre, anche quando il sole si levò splendido sulla montagna di macerie. 5 agosto 2026, oggi 5 agosto 2026, oggi 5 agosto 2026, oggi 5 agosto 2026.